piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Duro scontro sul celibato all'ombra del Vaticano. Il Papa emerito Joseph Ratzinger esce allo scoperto e si rivolge a Papa Bergoglio chiedendo al pontefice di non mettere in discussione il celibato ecclesiastico. Mai finora i due pontefici avevano avuto uno scontro dottrinale di questa portata. Quella del celibato, in atto fra i sacerdoti cattolici da circa 800 anni, una pratica, non un dogma rivelato, e come tale, secondo la religione, può essere messo in discussione dal capo della Chiesa, cioè il Papa. Benedetto XVI prende le distanze dalla paternità del libro Dal profondo del nostro cuore, pubblicato dal cardinale Robert Sara, sulla necessità di mantenere il celibato sacerdotale. L'arcivescovo Georg Genswein, segretario privato di Benedetto XVI, ha riferito che su richiesta del Papa emerito, Sara ha chiesto all'editore di rimuovere il nome e l'immagine di Ratzinger dalla copertina. La firma dovrebbe essere cancellata anche da sotto l'introduzione e dalle conclusioni del libro, perché non sono state scritte a quattro mani. Tuttavia, ha precisato Genswein, il contributo con il nome di emerito nella parte principale del libro è benedetto al 100%. Mi sembra chiaro, con pieno rispetto per l'autorità papale, che qualcuno abbia fatto un po' di casino questa volta. Devo dire, per istinto, penso che noi non dovremmo impicciarci delle cose vaticane, però visto che il Vaticano si impiccia tanto delle cose nostre, oggi in qualche maniera ci facciamo responsabili di alcune opinioni o del coinvolgimento del pubblico su questa vicenda che sta appassionando i giornali. Oggi tutte le prime pagine parlano appunto dell'equivoco, dell'affare legato appunto al libro del cardinale Robert Sara, che è un gran paraculo, perché devo dire ha convinto, ha fatto credere, ha fatto il gioco delle tre carte, insomma aveva già fatto un libro che aveva in copertina la sua faccia, il suo bel faccione e la faccia di Papa Ratzinger, perché Papa lo è a tutti gli effetti, anche se se ne sta da una parte, un libro in cui c'era una parte molto controversa sul celibato dei preti, che sembra sia un argomento che ritorna nuovamente attuale. Questo ha creato una sorta di pericolo di scisma, perché improvvisamente, a cominciare da Zocchi, che ha scritto pagine piene di passione a favore di Papa Ratzinger, insomma riviene fuori la storia mai troppo sopita, che in fondo è nell'aria che c'è una parte di cristianità che sta con Ratzinger, perché rappresenta secondo loro una posizione conservatrice legata alla dottrina incollabile di Sacra Romana Chiesa, e gli altri bergogliani, che sono quelli diciamo legati più all'innovazione, al cambiamento. La vedo così, è riassunta per sommi capi. E ora questo problema ci sarà sempre finché ci saranno due papi, perché potete, per quanto volete, aver creato la grande scenografia da angeli e demoni del Papa si allontana in elicottero sulla cupola di San Pietro, ma si è allontanato in elicottero ma riappare continuamente, perché comunque sia, non è che si è zittito come si diceva, parla. E i papi sono due, e oggi nelle vignette su tutti i giornali sono due, prendo quella di Giannelli su Corriere della Sera, cioè appunto Ratzinger e Bergoglio che parlano, dicono Ratzinger dice a Bergoglio pensa, c'è la tua età, capito? E parlano di una cosa che, vista con spirito malevolo, sembra quasi una battuta sui preti che si sposano. Ecco, questo problema durerà sempre, e se il problema c'è vuol dire che qualcuno ha sbagliato. In dubbio, il Papa come è eletto? Il Papa è eletto per una sorta di mandato divino, perché se avete fede dovete pensare che sicuramente è il vicario di Cristo in terra. Viene eletto attraverso il conclave, lo prendono tutti i cardinali, li chiudono a chiave dentro una stanza, lì dovrebbe essere ispirati allo Spirito Santo, e lo Spirito Santo a un certo punto fa loro pronunciare quello che è il vicario Gesù Cristo, quindi una sorta di mandato divino. Il Papa è lì per volontà di Dio, non è che è lì perché hanno fatto fra di loro giochi, magheggi e strumenti di mercimonio politico i cardinali, assolutamente. A un certo punto scende lo Spirito Santo e dice sarà lui e sarà il Papa. Però a questo giro qualcuno si è sbagliato, perché non ce ne dovrebbe essere due, dovrebbe esserci un papa fino all'esaurimento della sua vicenda terrena, poi viene fatto un altro papa, fumata nera, fumata bianca, papa. Ecco, se ce ne sono due e questo crea confusione, indubbiamente non può creare confusione, perché due papi ci sono stati solo nei momenti degli scismi della Chiesa, e se non volete uno scisma, di papa ce ne deve essere uno che parla per tutti, perché l'altro comunque sì, anche soltanto, vedete, quando va a trovarlo con una scatola di cioccolatini il cardinal Zara, gli dice: oh che bello, ti piacciono? Sì, guarda, mi dice due cazzate così sui preti che si sposano, lo fa parlare, poi ci fa un libro, ci mette la foto e poi succede un casino. Non può essere questo. Quindi ci prendiamo oggi, in nome di una sorta di laico suggerimento, la presunzione di poter proporre uno dei referendum di Melo per poter risolvere questo problema. Visto che il conclave non è più uno strumento adeguato, non risponde più alla volontà di Dio, perché se no non ci sarebbero due papi, ce ne sarebbe uno soltanto. Quindi o si è sbagliato lo Spirito Santo, o si sono sbagliati i cardinali, o era un po' distratto il Padre Eterno, non ci dovrebbero stare due papi, se no c'è casino, non ci sono santi, o uno o niente. Proponiamo magari un correttivo. Andiamo in linea con quello che è un sentire generale che oggi sembra rappresentare la volontà della maggior parte degli italiani, culla della cristianità, e proponiamo un referendum per l'elezione diretta del Papa. Se non funziona più il referendum, che è uno strumento passato, passiamo a uno strumento moderno. Il Papa può essere eletto attraverso il referendum popolare. Che ne pensate? Siete d'accordo? Possiamo fare questa proposta? Sarà presa sul serio? Lo sto dicendo molto seriamente, visto che poi la cristianità che deve vedersi rappresentata nel Papa, tanto vale che, come vale per il Presidente del Consiglio, che tutti pensano che lo leggano gli italiani, anche il Papa può benissimo essere eletto non dagli italiani, ma da cristiani di tutto il mondo. Referendum propositivo per l'elezione diretta del Santo Padre. La polemica che infiamma i giornali sulla divergenza di opinione tra i due papi dimostra che il sistema di elezione del capo della Chiesa Cattolica tramite conclave è superato. Di fatto, oggi esistono due papi che si pronunciano su questioni fondamentali della dottrina cattolica in modo opposto, generando non poca confusione tra i fedeli. Evidentemente c'è stato un errore a monte. Ma noi vogliamo dare una possibile soluzione per evitare che non si creino più certe ambiguità. Al posto del conclave cardinalizio, fatto di accordi segreti e delle fumate bianche e nere, proponiamo che il Papa in futuro venga eletto con votazione da parte di tutti i cattolici del mondo. Sarà lui l'unico rappresentante riconosciuto e ufficialmente legittimato a parlare. Si faranno delle primarie in Vaticano, che presenterà delle liste di candidati, e ognuno di questi farà la sua campagna elettorale. Avranno diritto al voto per l'elezione diretta del Santo Padre tutti i cattolici di comprovata fede, con attestazione dei sacramenti e di frequentazione della parrocchia. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete favorevoli o contrari all'elezione diretta del Papa e come vorreste articolare la votazione. Non vi preoccupate, sto già subendo la punizione per il mio ardire, sentite come parlo con difficoltà, quindi già qualcuno sta operando, perché non dovevo ardire a tanto, ma me la sento sinceramente. Allora, vedete se il discorso non è lineare, intanto 800 24 00 24, quello che ci serve adesso è dettagliare i termini di questa cosa totalmente rivoluzionaria, però indicativa dal punto di vista della democrazia diretta. Pensate, il conclave, vecchio strumento, ammuffito, non più rispondente all'impeto di innovazione della Chiesa, non più rispondente alla conservazione dei valori della sacralità, insomma, hanno sbagliato. In fondo, i credenti, il popolo dei credenti, l'Ecclesia altro non è che il corpo mistico di tutti i credenti che in fondo danno segno e testimonianza dell'esistenza di una fede. Se ne parla tanto, si portano in giro i presepi come se fossero borselli, e quindi va benissimo oggi pensare che ci possa essere l'elezione diretta del Papa. Allora, io non vedo nulla di vessatorio né di sacrilego. Il Vaticano è sempre l'organo centrale, lì sotto il cupolone si decide. Quindi le liste, diciamo le primarie, vengono fatte all'interno del Vaticano, mica vogliamo eleggere Pinco Pallino. Il Vaticano fa le primarie e fa una lista di candidati, io così la vedo. I candidati fanno la loro campagna elettorale. Si stabilisce un certo periodo a Piazza San Pietro, c'è la campagna elettorale. C'è la tribuna, non tribuna politica, tribuna papale. il Papa a turno parla, si contrappongono le varie posizioni, parlano i due aspiranti papi, ci sarà un moderatore, Bruno Vespa può moderare il dibattito, si mette a Piazza San Pietro, si fa un porta a porta e via via i candidati, secondo una par condicio, lì sì. Ma non sto scherzando, pensate un attimo come fosse una cosa realistica, e si confrontano. Alla fine della campagna elettorale si fanno le votazioni. Chi vota? Qui è molto delicato, non è che vota chiunque. Votano i cattolici, agli altri cosa gliene importa del Papa? I cattolici. Come si fa a provare che uno sia cattolico? Deve dirlo il parroco. Non basta avere tutti i sacramenti in regola, perché se no non sei cattolico, calma. Se voti per il Papa, di esserlo al 100%, non ci si prende in giro. Quindi al 100%. E noi divorziati non possono. Mi spiace, no, non possono. È così, a meno che viene un Papa, cambia tutto e poi allarga la base dei votanti. I cattolici votano in base a un certificato che attesta la loro facoltà di votare, quindi lo decideranno i cattolici come si certifica l'essere cattolici. Io direi che ci vuole almeno i sacramenti fatti e ci vuole perlomeno un bollino di partecipazione alla messa, cioè il prete deve dire, c'è una sorta di badge elettronico, ogni volta che vai a messa tu strisci, di avere tante strisciate durante l'anno, tante domeniche fatte, tante strisciate al confessionale, tante strisciate alla comunione, se no che cattolico sei? Allora, tutti siamo cattolici. Diciamo, avremo un margine un po' più ristretto, ma sempre più ampio del conclave, e questi possono votare. E il Papa eletto, nessuno si può più lamentare, è il Papa eletto dal popolo, e quindi i papi si confronteranno su un programma politico, dicendo io riformerò, farò sposare i preti, aprirò le chiese ai poveri, chiuderò i conventi, ci farò mettere i bambini, i poveri, che ne so, qualcosa, vi inventate quello che volete, però sarà un Papa almeno amato da tutti. 800 24 00 24, Gianni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti per l'ardire di trattare un argomento del genere. Visto che i papi parlano di tutto, anche noi laici ci permettiamo di suggerire che magari il conclave non è più lo strumento rappresentativo della volontà divina. Lei è d'accordo? Condivido pienamente. Come formalizzerebbe meglio questa? Io ho fatto lo schema per un referendum, magari si può dettagliare meglio. Ma io direi che si potrebbero creare delle schede, o si potrebbe fare anche una cosa online, sempre che ci fosse una grande condivisione popolare. In questo caso non c'è obbligo di segretezza del voto, perché non è votare per il Papa, potrebbe anche essere fatto un voto elettronico a questo punto. Certo. L'importante è che chi vota sia cattolico veramente, non per scherzo, per finta. No, io sono battezzato e sono un cattolico, però sono schifato da una certa ipocrisia dell'ambiente ecclesiastico che, come sappiamo... Però se uno comincia così, partiamo col piede sbagliato. Si resette, rinnoviamo la Chiesa la rinnova il corpo dei credenti, ci mettiamo di buona volontà, noi siamo disposti a dare il nostro contributo, scendiamo in campo. Scendono in campo e eleggono il Papa. Quindi ci si certifica, lei deve avere, naturalmente dovrà essere fornito del badge elettronico, perché dovrà in qualche maniera strisciare e dimostrare che va in chiesa, frequenta la chiesa e fa parte della chiesa, se no che vota. Detto questo, lei avrà diritto di votare. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, allora c'è un po' un equivoco. Sì. Io dico che perché parlare di cattolici? Dobbiamo parlare dei cristiani, no? Sono i cattolici. Ma il Papa è dei cattolici, è di tutti i cristiani. No, il Papa. No, è dei cristiani. Lei deve andare da Bassetti, sì, che è un suo cardinale umbro, e si fa insegnare qualcosa. Seconda cosa, io organizzerei la situazione in questa maniera. Quindi chi altro deve votare oltre i cattolici? I cristiani, quelli che sono stati battezzati, solo il battesimo, perché uno diventa cristiano con il battesimo. La Chiesa Cattolica... Quella Chiesa Cattolica hanno diventato i preti, non c'entra niente. Vabbè, Giuseppe, è un altro discorso. Io sto parlando del Papa eletto dalla Sacra Romana Chiesa, questo è il discorso, quello è il Papa. Gli altri si chiamano in altro modo, il Papa non è che rappresenta i cattolici, mi sembra, no? Non so, gli ortodossi hanno il loro, ognuno c'ha il suo, poi sono amici, si vogliono bene, se no facciamo confusione, non è che diventa il capo di tutti. È il Papa attuale come è, esattamente lo che parla all'Angelus la domenica a mezzogiorno a San Pietro, invece che essere eletto dal conclave è eletto dai cristiani, dai cattolici. Vedi, ognuno poi ci aggiunge qualcosa. Allora, Alessandro. Sì, buongiorno.

e ognuno di questi farà la sua campagna elettorale. Avranno diritto al voto per l'elezione diretta del Santo Padre tutti i cattolici di comprovata fede, con attestazione dei sacramenti e di frequentazione della parrocchia. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete favorevoli o contrari all'elezione diretta del Papa e come vorreste articolare la votazione. La mia voce è sempre più labile, sempre più strozzata, ma arriverò fino alla fine, state tranquilli. Io semplicemente collazionato attraverso l'opera di Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini quanto lo strumento ormai sia datato. È chiaro che non funziona più come una volta, extra omnes, tutti fuori, no, invece tutti dentro vogliamo, con il referendum sarebbero tutti dentro, il mondo cattolico finalmente potrebbe esprimere il suo Papa. Ma non sarebbe una sorpresa, non sarebbe un Papa sorpresa chissà che dice. No, dopo una regolare campagna elettorale in cui tutti i Papi, scelti attraverso le primarie vaticane, hanno esposto la loro lista. Io farò questo, farò quell'altro. Allora, se un Papa lo dice in partenza, farò sposare tutti i preti, le monache anche tra di loro se vogliono, uno lo vota o no. Se non lo vota, basta. Viene su un Papa che non mette nemmeno in discussione questo problema. Si parla di qualcos'altro. Sarebbe bello vedere aprire le promesse dei papi, che ne so, tutti i conventi che non ci sta più nessuno, ci facciamo delle balere per le persone tristi, cosa farei, voterei subito un papa che mi dice questo, oppure che ne so, un grande indulto per tutti, diventiamo tutti buoni e poi ricominciamo da capo e nessuno va più all'inferno, adesso anche questo lo potrebbe dire il papa, chi glielo impedisce, ecco. Questo invece potrebbe essere possibile soltanto attraverso un referendum, attraverso l'approvazione, diciamo, del voto popolare. Il Papa eletto per voto popolare, voto diretto, elezione diretta del Papa. Sta provocando qualche polemica, anche molte adesioni. Ho pronto l'ascoltatore Alessandro, quello che si esprimeva in senso critico, però prima sento Matteo. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io... sono veramente, complimenti per la trasmissione, perché lei sta facendo una grande bella trasmissione. È entusiasta per questo referendum. Sì, io sono d'accordo per il referendum, perché così almeno i cattolici scelgono il Papa con il 60% di voti, io lo articolerei così. A legge un almeno... 60% ci deve essere, un 60%. Sì. Sì, senza poi, proporzionali, niente, secco, 60%. Senza proporzionale. Perfetto. Deve essere un 60%. Poi il Papa deve... Quindi come funziona, diciamo, alla fine? Scusi, ci sono delle primarie, si eleggono due candidati col maggioritario, uno contro l'altro, sì? Certo. Sì, sì. Perfetto. Fanno delle primarie due candidati, mi sembra la cosa più giusta, che rappresentino due posizioni in antitesi naturalmente, così almeno... Certo. Poi un'altra cosa, il Papa... poi deve rispettare le regole di non sposarsi, di non far sposarsi gli altri papi. No, Michele, questo, se il Papa della sua campagna elettorale nel suo programma c'era questo rispetto del celibato, lei vota per quel Papa. Ma un Papa può anche dire no, ci sposiamo tutti, e non lo votano se la... Certo. Quindi ci vuole libertà e democrazia anche in questo. Certo, quello sì, ma se il Papa mi dice no, guarda, io non sono d'accordo per farvi sposare, ben venga, io voto chi l'importante è che non cambi in corso d'opera, ecco. No, l'importante è quello. Ecco, se si cambia idea, si cambia idea, che succede? Succede e poi dopo si ritorna a rivotare perché così... Si dà la sfiducia al Papa? Certo. Non si va più in chiesa? Allora, perfetto. La sfiducia al Papa si realizza che in modo che si disertano tutte le chiese finché non cambia il Papa. Ecco, una forma di sciopero. Certo. Di noi cattolici. Perfetto. Se il Papa funziona, le chiese si riempiono, ci porta gli amici, chiama, fa i social network. Ma certo. E vuol dire che si misura il consenso, come fosse un sondaggio. Se il Papa a un certo punto cambia idea per strada e non riesce a essere convinto, può cambiare idea perché è lecito, ma non convince, si disertano le chiese. Le chiese vuote, non ci va più nessuno, deserte, nessuno dà più le questue, niente. Otto per mille, niente. Perfetto, benissimo, mi sembra chiaro. Allora, Fabio. Sì, buongiorno. Lei come la pensa? Beh, io sono d'accordo, ma non da oggi, non perché l'ho sentito oggi, ma perché tutta la vita ho approfondito la cosa e... Ci aveva già pensato, diciamo. Sì, necessariamente, perché ho dei parenti, o avevo dei parenti in valigia, non sono tutti morti adesso. Però, parenti in valigia? Non ho capito, scusi. Sin da quando ero bambino avevo dei parenti in Vaticano. Ah, in Vaticano. E sono morti. Sono morti, per ormai erano vecchi. Io da quando mancano loro, sono passati 50 anni, non è cambiato assolutamente nulla. Quindi c'è il momento di cambiare, si cambia soltanto con una diciamo riforma istituzionale vera, sì, reale, concreta. Questi miei parenti, che erano praticamente due santi, perché... insomma, cattolicissimi, sì. Aiutavano i poveri, certo, una cosa giustamente veramente commovente. E dicevano proprio questa cosa che state dicendo voi adesso. Ci vorrebbe l'elezione diretta. 50 anni fa. Sì. Sì, però guardi, noi quando ci esprimiamo con una proposta di referendum, non è che lo facciamo perché ci svegliamo, diciamo, facciamo questo. Abbiamo uno staff di persone che osservano quello che è, diciamo, il sentire popolare, i flussi di pensiero che circolano in maniera sotterranea, li intercettano. Questo è stato intercettato con una volontà. Allora, Alessandro era l'ascoltatore che aveva espresso un dissenso. Alessandro, mi fa piacere parlare con lei perché... sembra che siano tutti d'accordo, non vorrei che noi abbiamo fatto una proposta populista tanto per acquisire consenso. Mi dica i punti deboli di questa cosa, così almeno... Ma no, allora, sostanzialmente, per essere un buon cattolico, un cristiano, cioè, uno deve andare a messa, quindi non è che non andando a messa che risolvi il problema, di mostri il tuo dissenso. Dissenso si dimostra... ma io detto, scusi, ho messo il badge, addirittura dico, chi vota deve strisciare quando va... non c'è mai... Io sono razionale. Ma non ho mai sopportato lavoro di figure andare in chiesa con me. Ma io sono razionale. A Cabollini, no. Certo, no, uno striscia si è confessato. No. Era sennò tutto un'ipotesi. I premi alle grandi multinazionali, per cortesia. No, tipo una patente a punti. Vabbè, non so. La mia è una proposta razionale. Almeno ha una misura concreta della fede. Tanto, ma non c'è altra... sì, ognuno, ma alla fine ognuno ha la misura di se stesso, mi scusi, cioè, non sì. È che tu più vai in chiesa, tu sei un buon cattolico, meno vai in chiesa. Ma almeno pratichi, ci provi, pratichi, fai un tentativo. Secondo me invece, io dico, questo so anche papa, io posso dire, ho una sfede smisurata, però prendo... Prego. Questo papa che tutti criticate... Io non lo critico, io... Che... Io... No, in generale, scusa. No, va bene, uno vale l'altro, non cambia nulla. No, uno vale l'altro, non è possibile. Cioè questo Papa, secondo me, ha portato un grande rinnovamento, ha portato un grande diciamo, coinvolgimento. Ma se è un po' più paraculo di quell'altro nel porto, questo sì. Ma non può parlare del Papa come paraculo, mi scusi, dottore. Ma è un termine colorito per dire simpatico, fa il simpatico. Il Papa è super parte, il Papa è emanazione di Dio. Cioè, sì, ma perché ne ha emanati due Dio? Sta botta, mi deve capire perché bastava uno, no? Scusi, è questo il problema. No, ma lì deve andare a dire, sai chi ha il problema? Lì è il Vaticano, capisce? Esula le mie parole. No? Ma Dio dovrebbe stare sopra, scusi. Lì deve andare a chiedere ai signori, a vescovi del conclave che cosa hanno combinato. Ma per questo, sì, ma per questo, siccome. Ma dato che comunque uno direi, io sono l'ultimo delle persone che può parlare. Siccome Dio non passa più per voi, evidentemente avete fatto qualcosa, facciamolo passare per il corpo mistico dei credenti, quindi votano loro. Ci fermiamo solo un istante e poi continuiamo. Maestro SD-One, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro! Non temere, ecco la tua arma, la fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo, accessi, cloud, applicazioni, si integra con tutte le tecnologie, ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore e poi si attiva in un laser, volevo dire in un lampo. Vai su fibraintelligente.it. Fibra intelligente, la soluzione SD-One di Iridios, il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Come stai, Santo Padre? Mi sto abituando, Santo Padre. E sono pronto a distruggerla. La finale dei mondiali è iniziata. Germania contro Argentina. Due grandi rivali. Eccole che si incontrano di nuovo per la finale. Ehi, guarda, sei tu. Le squadre migliori di questo mondiale. La nazionale argentina ha sconfitto i Paesi Bassi nella semifinale. davvero, è emozionante, ora riesco a capirlo. Capisco l'entusiasmo. Bene, finalmente. La nazionale tedesca ha battuto il Brasile 7-1. Questo è un telefilm, una serie su Netflix, i due papi. E alla fine finiscono davanti a televisione a guardare Argentina-Germania, uno con la sciarpa dell'Argentina, l'altro con la sciarpa della Germania. Ecco. Può finire così in burletta? No, io ho un rispetto sacro, io sono un cultore di Rudolf Otto, credo nel Mysterium Tremendum. Però se il Mysterium Tremendum non avviene più lì nel conclave dove si elegge il Papa, è meglio che sia un po' meno misterioso, un po' meno tremendo e diventi un voto popolare, elezione diretta del Papa. Luciana, buongiorno. Buongiorno a lei. Una cosa molto rapida e molto semplice. Posto che la democrazia è il minore dei mali, resta il fatto che vediamo i mali che fa in tante situazioni, a partire da una banale assemblea di condominio e anche con le elezioni politiche. Resta il fatto che uno ha il diritto di votare, ok, ma se un asino raglia ha tutto il diritto di ragliare, ma resta un asino. Quindi secondo lei non tutti i cattolici avrebbero gli strumenti necessari per poter votare il Papa? Sì, questo invece dietro ogni parroco, il parroco sa il sentito di ogni parroco. Quindi lei creerebbe solo dei grandi elettori, solo i parroci possono votare per il Papa? No, non sto dicendo questo, non sono competente a tal punto, però dietro ogni parroco c'è la parrocchia, il parroco sa cosa pensano i suoi parrocchiari. Dietro ogni vescovo ci sono tutti i parroci e il vescovo sa cosa pensano tutti i suoi parroci. E quindi non si può che tutti possono dire, perché ripeto, anche un asino ha il diritto. Quindi lei riporterebbe a una gerarchia come quella dei cardinali il diritto di eleggere il Papa. Lei rimarrebbe nel solco della tradizione, ecco questo è il problema, dice lei. Sì, con rispetto. No, è il suo punto di vista, è rispettabile. Lei dice, certo. Andiamo a mettere un elemento di confusione in un sistema che comunque ha una sua struttura, è la derivazione, comunque è il vertice della gerarchia ecclesiale che apre il contatto diretto con l'assoluto e, ispirato allo Spirito Santo, vota al Papa. Rimane nel solco della tradizione, Luciana. Riccardo. Sì, salve, Riccardo. L'ascolto. Ecco, credo che la democrazia non si possa associare alla Chiesa semplicemente perché non è un'istituzione umana la Chiesa, è fatta di uomini ma è voluta da Cristo, per volontà di Cristo, come è scritto sui Vangeli. E questo non ci piove, certo. Non ci piove e quindi non possiamo noi decidere. Quello che io mi invito personalmente da cattolico e il più grande dei peccatori su questa terra è appunto rifarsi alle parole di Cristo. Su Pietro è stata fondata la Chiesa. E la tradizione e i secoli hanno portato la Chiesa a essere quella che è. Quindi è la Chiesa uomini. Che deve eleggere il Papa, ecco, questo dice lei. Non è la Chiesa e il fedele che è confermato nella fede dal Papa per quello che ha detto Gesù Cristo. E beh, dicevo, i fedeli appunto potranno votare direttamente il Papa. I fedeli stanno nell'obbedienza alla Chiesa, come dice San Paolo, ai mariti e alle mogli. Ho capito quello che dice lei, giusto, ma le primarie in questo caso sono fatte sempre dal Vaticano, cioè diciamo i candidati vengono sempre proposti dalla Chiesa, non cambia. Pietro è stato scelto tra gli apostoli, ma questo dico, diciamo, la Chiesa fa le primarie, mette, diciamo, di questi sceglie i cardinali, ce ne sono due, perché se no ritorniamo due, tre rimangono la Chiesa sceglie in virtù del conclave e sceglie attraverso i cardinali che sono i mandatari di questa elezione che non è umana, perché è lo Spirito Santo che sceglie. Ma questa volta ormai lo Spirito Santo il cattolico deve fare memoria che il Papa, il buon Pietro, è stato scelto. Vabbè, ho capito, ma così il mondo rimane congelato. Posso dire una cosa? Esiste. Se rimanesse congelato nella visione che ha vissuto Pietro, nell'aver riconosciuto quella misericordia per aver... Vabbè, senta, lei mi sta facendo una predica, io sto cercando di parlare razionale, le prediche non mi interessano. Gabriele, sì, così ciao. Non se ne esce, rispetto l'obiettività di chi deve rimanere legato alla sua parola, però io dico, siccome è tutto cambiato e tutto è mutato, non c'è stato nulla di immutabile dall'inizio dell'umanità a oggi, anche il conclave probabilmente, secondo me, è uno strumento che sta facendo un po' acqua. Gabriele. Assolutamente, ciao. Ascolto. Senti, io devo dire la verità, mi sembra... Però levi il viva voce, perché sennò non si capisce nulla, scusi. No, ecco. Non sono in viva voce. Ah, ecco, adesso sente meglio, sì, adesso sente meglio. Senti, a me sembra un piccolo scherzo, insomma, molto divertente. Ma perché scherzo? Non sto scherzando, io sono molto serio in questo momento. Va bene, no. Se avessi detto, scusi, se avessi detto 10 anni fa, ci sarà un problema che ci saranno due papi a parlare, mi avrebbero preso per matto, cioè, che bello scherzo. Oggi ci sono due papi a parlare. Lei guarda, io apro Corriere della Sera, giornale autorevole, vedo due papi che parlano tra di loro. È un problema, questo è un problema di confusione, è oggettivo, non è che voglio fare una provocazione e scherzare. Ma allora tu ti rendi conto cosa potrebbe succedere se tutto l'Ecclesia manifestasse la sua volontà? Non lo so, vorrei vedere, almeno sarebbe un dato oggettivo legato a una concezione moderna. Si sono espresse le persone in maniera democratica, hanno dato il loro parere. Guardi che è altrettanto folle, non ce ne rendiamo conto, ma se lei 10 anni fa le avessero detto, lei immagino sia un credente, ci saranno due papi a parlare, due papi vestiti da papi, ognuno fa capo a un movimento di opinione all'interno della Chiesa. Guardate che non c'è nulla di più confusivo. Noi stiamo vivendo uno scisma, lo viviamo in maniera moderna e mediatica, ma a tutti gli effetti stiamo vivendo uno scisma, a tutti gli effetti. Arginare quello che potrebbe essere il tracimare di questo scisma è cambiare il sistema di elezione. Io capisco, rispetto, conosco, so che è qualcosa che trascende l'umano. I cardinali sono illuminati dallo Spirito Santo, è vero, ma evidentemente non soffiava più lo Spirito in quel posto, se no non ci sarebbero due papi. Questa è una mia ipotesi, non è una certezza, non esprimo certezze, guai. È una mia ipotesi, se cambiaste il sistema, voi faceste delle primarie e lasciaste poi al popolo dei credenti la parola ultima sul Papa, oggi la gente avrebbe scelto fra Ratzinger o Bergoglio, e il Papa che sarebbe a tutti gli effetti sul soglio di San Pietro sarebbe quello eletto dal popolo, nessuno avrebbe nulla da dire. C'erano altre persone, tantissime, comunque sia l'argomento suscita interesse, poi io non sono nessuno per dirlo. Alla prossima.